Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì d'accordo ma poi tutto è il resto è già. Gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia. Ecco quello che ci aspetta oggi. La noia da scacciare e qualche sparo in sottofondo. Una storia che arriva come un cazzotto allo stomaco e poi svanisce dentro una nuvola di fumo, con una lacrima trattenuta e un nodo in gola che ti impedisce di deglutire. E nel mezzo un pensiero che ti si fissa in testa: ma c'è davvero una morale in tutto questo? Nelle storie sì, la morale c'è. Il più delle volte è dichiarata. E dove non arriva lo scrittore ci si mette di buon piglio il lettore. Ma la vita reale è diversa. La parola fine non sempre arriva poco prima delle note di una canzone o dei ringraziamenti. Nella vita reale ci sono i fatti, e i fatti spesso risvegliano dal sonno. I fatti sono questi. Ci sono due tizi nella Roma anni 70 che hanno deciso di puntare in alto. Uno è bello e scontroso, quasi spietato, uno che non ama farsi mettere i piedi in testa. L'altro è altrettanto orgoglioso, un po' più in là con gli anni, ma meno irruento e più paziente. Un giorno le loro strade e i loro sguardi si incrociano mentre intorno a loro si solleva immediatamente il timore che possano scontrarsi da un momento all'altro. Le parole improvvisamente prendono forma nella mente di chi li circonda. Tutti si immaginano frasi del genere. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Pistole, praterie verdi, buoni e cattivi. Possiamo credere che sia andata veramente così? Che davvero il primo incontro tra questi due personaggi abbia avuto un sottofondo western e un primo piano fisso sugli occhi semichiusi? Ma poco importa. I dettagli non influenzano una storia, piuttosto la arricchiscono. E poi siamo andati troppo in là nello svelare la trama. Il racconto comincia prima. E Roma è solo un nome di città come tanti, quando tutto ha inizio. Da dove cominciamo? C'è tanto peregrinare in questa storia che lo sfondo sembra quasi un dettaglio ininfluente. Ma proviamo lo stesso. Cominciamo dalla Toscana, perché da lì sono partiti i nostri protagonisti. Niente trucchi, nessuna astuzia. Questa storia non possiede l'emergente tensione thriller o il piglio imprevedibile dell'avventura. È una storia reale, dritta come la schiena di chi non ha paura, dritta come il binario di un treno che va in avanti. E allora ecco i nomi, subito, perché anche loro vorrebbero così. A Pisa, il 7 ottobre del 1922, viene alla luce un bambino vispo come il padre che fa il capostazione. Il suo nome è Tommaso Maestrelli. Tommaso Maestrelli. 25 anni dopo, tocca a Carrara. È qui che nasce un bambino grosso. Grosso, non grasso. Per lui il viaggio è ancora più lungo. Meno tappe, ma una destinazione di quelle poco gettonate. Si tratta di Cardiff, porto e capitale del Galles. Un punto grigio nella sterminata prateria verde anglosassone. Ci arriverà a 8 anni per raggiungere il padre che lavora in una fonderia. Il suo nome è Giorgio Chinaglia. Giorgio Chinaglia. Ora bisogna sgomberare definitivamente il campo da ogni dubbio, via qualsiasi deriva sociale alla Dickens o provocazione alla Pasolini. Questi due ragazzi hanno solo una cosa in mente: il calcio. A Bari, dove è finito con la famiglia, Maestrelli si fa tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in Serie A contro il Milan. Lo fa alla tenera età di 16 anni, 4 mesi e 19 giorni, a poco meno di un anno dal record di Amedeo Amedei. Ecco chi è Tommaso Maestrelli, uno che vuole stare davanti agli altri, per quanto è possibile. Bari, poi Roma e Lucchese, e infine di nuovo Bari. Qualche soddisfazione e una sensazione di poter dare di più al mondo del calcio. Toccherà ripartire in un altro modo, proprio dalla città pugliese. E questo è uno. Chinaglia invece sceglie una via un po' più laterale o, se volete, un po' fuori dal comune. Sceglie lo Swansea e i suoi tifosi che cantano canzoni gallesi dentro lo stadio. Se ne va a 50 km da Cardiff a giocare perché la squadra della capitale gli offre un periodo di prova e per Giorgio questo equivale a un insulto. Se lo ricordano bene in Galles il nome Chinaglia, c'è ancora chi racconta della sfuriata del padre, perché da qualcuno il giovane deve pure aver preso, quando fece irruzione nell'ufficio di Billy Lucas, il manager della squadra, con una scura in mano per discutere del mancato utilizzo del figlio in prima squadra. Il piccolo Chinaglia tornerà in Italia poco tempo dopo, perché deve compiere il servizio militare e perché il papà non ha più voglia di irrompere nelle stanze brandendo oggetti. La patria avrà modo di valorizzare la capacità del figlio, pensa. E allora via, si torna indietro. Giorgio è carico come una molla e ai gallesi non rimangono che piccole tracce. Donne, gioco, fumo, bere. Quel ragazzone italiano non si è voluto privare di niente dall'inizio. È chiaro, c'è chi vive seguendo le armonie circolari della terra e chi invece va a sbattere contro gli spigoli, di proposito. Giorgio Chinaglia è uno di questi. Siamo arrivati in Italia seguendo le tracce lasciate da due pistoleri del pallone. Uno sceriffo maturato a Bari e un fuorilegge che ha sparato i suoi primi colpi in Galles. Facciamo un po' di ordine. È il 1966. Aldo Moro è al governo. Negli Stati Uniti Robert Weaver diventa il primo ministro americano di colore. E John Lennon ha da poco confessato a un giornale britannico che i Beatles sono più popolari di Gesù Cristo. Mentre il mondo si muove frenetico, Tommaso Maestrelli se ne sta seduto sulla panchina della Regina. Ha deciso che il calcio continuerà a fare parte della sua vita, vuole fare l'allenatore e vincere quello che non è riuscito a vincere da calciatore. E a Reggio, dopo l'immancabile trafila nel suo Bari, e a Reggio per stupire tutti, e gli riesce. Fa giocare un calcio strano, Maestrelli, un tipo di calcio che non appartiene alla tradizione italiana fatta di difesa e contropiede. Il suo è un calcio diverso, che si sta sviluppando in Olanda e che tra qualche anno troverà interpreti straordinari. Ogni giorno alla fine della preparazione ti senti distrutto perché ogni giorno devi superare quello che sul momento ti sembra il tuo limite. Tu cominci a correre, a scattare, a calciare e dopo un po' ti sembra di avere esaurita ogni energia, mentre in effetti hai esaurito solo il cosiddetto primo fiato. A quel punto bisogna sforzarsi per superare la piccola crisi che sembra bloccarti, per arrivare appunto al secondo fiato, che ovviamente arriva solo dopo qualche minuto di sofferenza. Quando l'allenatore dà lo stop, senti il cuore che batte vertiginosamente. Sembra che debba scoppiarti nel petto. Devi riuscire a ricondurlo al suo ritmo normale in meno di 2 minuti. Se non ci riesci, è meglio che apri una tabaccheria o tenti di diventare presidente del consiglio. Vuol dire che hai sbagliato mestiere. Le parole sono di Johan Cruyff, inimitabile profeta di quella fenomenale squadra che diventerà la nazionale olandese. Metodi e tattiche nuovi e interpreti straordinari. Ecco la ricetta del miracolo. Manca ancora qualche anno alla nascita del mito degli Orange, eppure Maestrelli è a Reggio a cercare di proporre un calcio nuovo, simile a quello che troverà la sua espressione migliore con la nazionale di Cruyff. La Regina sale per la prima volta in Serie B guidata dal suo giovane tecnico e l'anno dopo sfiora un'altra promozione. Dopo Reggio tocca al Foggia, che Maestrelli trascina in Serie A raccogliendo il plauso di tutti per il gioco mostrato. Nella massima serie si comincia bene e si finisce male. I pugliesi fanno un girone d'andata strepitoso per poi affondare nel ritorno fino alla retrocessione. Alla nona giornata il tecnico si trova di fronte alla Lazio, che davanti schiera un ragazzo grosso e potente, che nonostante la pesante sconfitta gioca e segna scalciando come un cavallo imbizzarrito. Sembra proprio lui. Ma sì, è lui, è Giorgio Chinaglia, pistolero di Carrara. Sfido anche me stesso a volte. Forse sempre, mi sono sempre sfidato me stesso. Perché la vita sono cose che uno deve cercare sempre di raggiungere, traguardi, di ambizioni, di la cosa principale è di soddisfazione. E soddisfazioni personali sono le cose più belle che uno può avere. Eccolo Giorgio, timido e confuso perché i pistoleri non amano parlare. Alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in Serie A, ripartendo proprio da casa. È alla Massese, infatti, che finisce a giocare dopo il suo ritorno dal Galles. 32 gol e via all'Inter Napoli, una squadra campana con un nome da fantacalcio. In due stagioni segna più di 60 gol e finalmente qualcuno comincia a notarlo. È difficile non farlo, a dir la verità, merito di quel suo fisico imponente e quella sua andatura che quando corre lo fanno sembrare un bufalo che carica. La testa che si incassa fino a quasi inglobare il collo e il piede che calcia saette da qualsiasi posizione. Qualche anno più tardi, negli Stati Uniti, dove chiuderà la carriera, un compagno di squadra si lamenterà di questa sua mania di tirare da ogni angolo del campo. Si tratta di Pelé, o Ray, uno che il calcio l'ha giocato come nessun altro. «Sono chinaglia, se tiro da un punto è perché chinaglia può segnare da lì», sarà la piccata risposta di Giorgione. Ecco, questo è Giorgio, bollente 7 giorni su 7, dentro e fuori dal campo. E quel look e quell'aria da sbruffone, le donne che gli cadono ai piedi. Difficile domare un tizio così. Deve essere la stessa considerazione che si pone Carlo Galli quando decide di portarlo alla Lazio. È il 1969 e Giorgio alle spalle ha già parecchie intemperanze. Ritiri abbandonati, liti con i compagni, scappatelle. Ma chi se ne importa in fondo? Gli anni 70 sono alle porte e Roma è lì che aspetta qualcuno che la voglia conquistare. L'impatto di Chinaglia con la Lazio è difficile da spiegare, non c'è una folla oceanica ad accoglierlo e seppur considerato un buon acquisto, c'è timore che il suo carattere possa creare dei problemi. Non è il classico colpo di fulmine, assomiglia più a uno sguardo d'intesa destinato a saldarsi nel tempo. Giorgione sa di meritare la Serie A, anzi, per lui probabilmente è il contrario, è la Serie A a essere un palcoscenico degno di lui, ma sa anche che il tifoso va conquistato ogni domenica sul campo. Per questo alternerà sbruffonerie a corse a testa china, atteggiamenti egoistici a partite di sacrificio. È uno dei segreti di Chinaglia che lo porteranno a scavarsi una nicchia nel cuore dei supporter biancazzurri. Negli anni Ottanta, quando guidato dal suo amore e dal suo istinto, Giorgione tornerà alla Lazio come dirigente per cercare di riportare in alto una società alle prese con qualche problema, saranno sempre i tifosi il suo punto di riferimento. L'unico modo dargli soddisfazione in campo, perché i 6 giorni nella settimana che uno parla può dire tante cose, ma le chiacchiere servono sempre a zero. Quello che conta è la domenica, che si devono mettere bene in testa tutti quanti, che le soddisfazioni si ottengono alla domenica, non il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì con la stampa, con le televisioni private e tutto. No, il tifoso vuole la soddisfazione domenicale. Pochi concetti ben stampati in mente. Ecco come si fa breccia nei cuori. Nel 1969, quando arriva alla Lazio, Chinaglia ha gli stessi identici pensieri. In più è giovane ed è una forza della natura. Il primo anno Long John, come verrà ribattezzato per i suoi trascorsi anglosassoni, mette in mostra un bel biglietto da visita. Nella sua prima gara da titolare segna e grazie alla sua rete la Lazio sconfigge il Milan. Col passare delle giornate Chinaglia guadagna spazio, con quel suo fisico imponente e quel suo spirito da combattente che toglie terreno agli altri. Segna una dozzina di gol, trova un buon feeling con l'allenatore Lorenzo e si fa notare dagli osservatori della nazionale sfiorando la convocazione per i mondiali in Messico. Sembra davvero un buon inizio. Forse non c'è bisogno di tenere la mano vicina alla fondina, forse non c'è bisogno di sparare. Forse. Perché qualcosa va storto, come si dice quando i piani non funzionano. L'anno successivo, chissà perché, la Lazio fatica da subito, tantissimo, e si trova impelagata nella lotta per non retrocedere. Chinaglia segna meno dell'anno prima e la squadra non riesce a tirarsi fuori dal pantano. Finirà male, con il passaggio in Serie B sotto lo sguardo incredulo dei tifosi. Chinaglia è furente, vorrebbe andarsene, vorrebbe spaccare il mondo, vorrebbe smettere di ricominciare da capo, vorrebbe sparare, visto che la massima serie lui pensa di meritarsela. La società fa quadrato e pensa come ritornare presto nel calcio che conta. Patron Lenzini incarica i suoi uomini di contattare un uomo che conosca bene il campionato cadetto e che abbia fame di grande calcio. Il ritratto è perfetto. È lui. È Tommaso Maestrelli. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Ecco come si è svolto il primo incontro tra Chinaglia e Maestrelli, usando un po' di immaginazione. Il cielo terso, il vento che sibila e due uomini pronti a far fuoco. Da un lato, Chinaglia con la sua pistola ben salda nella mano e il colpo in canna, perché Giorgione ha sempre il colpo in canna e ora lui spara per la Lazio e chiunque arrivi alla Lazio deve fare i conti con lui. Dall'altra, Tommaso Maestrelli, qualche ruga in più e una lunga cavalcata tra le verdi praterie del pallone alle spalle, con un fucile messogli in mano dalla società per fare la voce grossa e rimettere in sella la squadra riportandola dove merita. Non sembra poi così assurdo pensarlo. La realtà ha altri costumi e altri sfondi. Chinaglia effettivamente accoglie Maestrelli con ostilità ed è normale pensare che qualcosa succederà, uno dei due è di troppo. Giorgione, tra l'altro, ha mercato e qualche soldo alla società non guasterebbe. Ma questo è evidentemente un altro destino. Durante un torneo chiamato Coppa delle Alpi, alla fine della stagione della retrocessione, Tommaso Maestrelli, appena incaricato dalla dirigenza, prende da parte Chinaglia e gli illustra punto per punto il suo progetto per riportare la Lazio in alto. Long John rimane colpito dalla determinazione e dall'ambizione di quel toscanaccio trapiantato al sud. Nessuna paura, tanta grinta e una pacatezza che conquista. Nessuna paura, tanta grinta e una pacatezza che conquista. Gli ultimi indugi vengono spazzati via durante la finale del torneo. Giorgione è influenzato e rischia di dover saltare la partita. Maestrelli, invece che spaventarsi davanti alle esalazioni tutt'altro che amichevoli del suo attaccante, gli spreme del succo di limone in gola e lo convince a scendere in campo. Verrà ripagato da una tripletta. Ecco, adesso è chiaro. È chiaro che i due uomini sono dalla stessa parte, che saranno dolori per tutti. È chiaro che il buono riuscirà a domare il cattivo e bello per andare a dettar legge in chissà quanti saloon. È chiaro che prima o poi questi due tenteranno il colpo del secolo. Ma tutto questo è chiaro solo a Chinaglia e Maestrelli. Ora bisogna convincere gli altri. Destini incrociati. Maestrelli, per una volta tanto si comprometta. La favorita per il campionato di quest'anno? Ma senz'altro penso sempre il Milan e la Juventus. Fra queste due squadre uscirà la squadra campione d'Italia. Eccola la voce del maestro datata luglio 1973. Sono passati 2 anni da quando Tommaso Maestrelli è diventato l'allenatore della Lazio. 2 anni che sembrano 200. La squadra capitolina è ritornata in Serie A dopo una faticosa promozione conquistata nel campionato 71-72 e si è irrobustita, lentamente ma con costanza, e migliorando a vista d'occhio col passare dei mesi. I giocatori hanno digerito il nuovo dettame tattico e tutti sembrano disposti al sacrificio e alla lotta, persino quel burbero di Chinaglia. L'11 titolare assume i contorni della macchina perfetta e la stagione seguente arriva addirittura a sfiorare lo scudetto, perso solo all'ultima rocambolesca giornata. Ecco perché, con la prudenza che da sempre lo contraddistingue, Maestrelli risponde indicando Milan e Juve quali favorite per lo scudetto della stagione che sta per iniziare, quella del 73-74. Pensate agli anni 70, pensate a Berlinguer e al compromesso storico, pensate alla crisi del petrolio e alle prime domeniche a piedi, pensate alla strategia della tensione e all'Italicus, pensate alle Brigate Rosse e al referendum sul divorzio, a Feltrinelli e al commissario Calabresi. L'Italia negli anni 70 è una pentola in ebollizione. Da noi il maggio francese arriva con qualche anno di ritardo, condito dalla solita immancabile anarchia. Da un certo punto di vista e nel suo piccolo, la Lazio è una roba del genere. Una pignatta messa sul fuoco caldo, con dentro chicchi di mais pronti a esplodere in mille direzioni. Se la superficie è calda, sotto è l'inferno. Clan, night, spari, pubbliche provocazioni. L'11 di Maestrelli è un filo sottile sempre in tensione, che pare doversi spezzare da un momento all'altro. Eppure vince. Di più, sorprende. L'anno di B, l'anno di purgatorio, è il più difficile. Maestrelli viene accolto con diffidenza e per buona parte della stagione deve vedersela con lo spettro dell'allenatore precedente, quel Lorenzo che alcuni tifosi, unitisi sotto lo pseudonimo di Coscienza della Lazio, rivolgono a tutti i costi indietro. Il maestro non mostra paura, si tira sulle maniche e comincia a trasferire ai giocatori il suo credo. Va dal presidente, tentato dalle sirene che gli vogliono strappare Chinaglia, e lo convince a tenerlo, mettendolo al centro del suo progetto. E Chinaglia? Beh, Long John non ha perso il vizietto della provocazione, ma neppure la voglia di emergere. Sentite Italo Allodi, dirigente della nazionale, che ebbe modo di incontrarlo e osservarlo nei ritiri. Chinaglia andava spesso a letto con le scarpe da calcio ai piedi, pur di abituarsi a quelle calzature speciali e trasformarle in pantofole. Cercava di diventare un tutt'uno con loro, così come i campioni cercano di trasformare il pallone in una protesi di se stessi. Diabolico, Long John. A letto con gli scarpini e la pistola messa lì, sul comodino. Nella Lazio Chinaglia è ormai un senatore e col passare dei mesi Maestrelli trova la quadratura e gli uomini giusti. Ma è una fatica boia. Ogni domenica c'è il timore che una miccia possa rovinare tutto. Rovistiamo a caso nei 2 anni che vanno dalla promozione allo scudetto sfiorato. Risse sfiorate a Tor di Quinto, dove la Lazio si allena. Schiaffi e calci che volano negli spogliatoi durante l'intervallo con alcuni giocatori del Napoli. Il capitano Wilson che rassegna le dimissioni e il portiere Di Vincenzo che fa una scenata per essere cacciato apposta. Senza contare il personalissimo cartellino di Chinaglia, che ne pensa 100 e ne fa altrettante. Chinaglia che gioca con 8 punti di sutura alla tibia e Chinaglia che rompe 2 falangi al portiere del Milan con una punizione e poi esulta. Chinaglia che fa le corna ai tifosi avversari. Chinaglia che seduce. Eppure quel vulcano, che pare essere sul punto di dover eruttare da un momento all'altro, resiste e il merito è tutto del maestro. Una persona di altri tempi, una persona di un carattere eccezionale, molto forte, perché a volte si scambia debolezza e gentilezza come se fosse una debolezza, invece no, era un carattere molto forte, però una persona alla quale non si poteva non voler bene. E io dico sempre una cosa, voi vedete oggigiorno quando il giocatore fa gol va a esultare, si leva la maglia, va sotto la curva, fa 3.000 piroette e via dicendo. Noi per ogni gol che andavamo a segnare andavamo direttamente ad abbracciare lui sulla panchina. Ecco cosa pensa di lui Pino Wilson, elegante libero bianco-celeste, un altro nome che starebbe bene in un romanzo pulp. E così risponderebbero quasi tutti gli altri, se gli si chiedesse del maestro. Perché questo è il segreto di Maestrelli. Un calcio moderno, certo, il fiuto, l'applicazione, l'umiltà e la voglia di emergere, ma soprattutto un'umanità fuori dal comune. Ecco perché alla domanda su chi è favorito per lo scudetto che abbiamo sentito prima, il maestro risponde con candore Juve e Milan. Non perché non lo voglia vincere, ma perché loro non possono essere i favoriti. Il maestro lo sa. La sua Lazio è un meraviglioso e fragile dipinto su tela che può disintegrarsi da un momento all'altro. Ci sono possibilità, ma l'unica è vivere alla giornata e sperare che Giorgione ci dia dentro sparando coi piedi. Maestrelli, Chinaglia l'anno scorso ha disputato un campionato forse un po' meno brillante di quanto ci si poteva aspettare. Lo utilizzerà alla stessa maniera che quest'anno? Ma non sono d'accordo per quanto riguarda il campionato di Chinaglia l'anno scorso. Chinaglia si è assoggettato a una mentalità diversa, a un gioco differente da quelle che erano le sue caratteristiche. Perciò ci è stato utilissimo, anche se al momento non è arrivato a vincere la classifica cannonieri, è stato un giocatore determinante per il nostro campionato. Quest'anno, con un'esperienza in più della squadra, sono sicuro che Chinaglia farà molto di più anche dell'anno scorso. C'è qualcosa di diverso ora nella Lazio. Lo si sente dalle parole dei protagonisti. Maestrelli parla di un Chinaglia assoggettato, una parola che Long John rispedirebbe al mittente con una bella pallottola a chiunque provasse ad accostarla a lui. Chiunque, ma non il maestro. Col maestro Chinaglia sembra un agnellino. Chinaglia, l'anno scorso lei è stato un po' sul banco degli accusati, l'hanno rimproverato di aver segnato poco. Sì, l'anno scorso ho segnato 10 reti, e per certi erano un po' pochi, insomma, tanti non erano, ma nemmeno tanto pochi, insomma, perché ho dovuto svolgere un compito un po' diverso dagli altri anni. So, io aiutavo più i centrocampisti, aiutavo un po' tutto. Ecco, non è un po' il suo gioco quello, no? No, non era il mio gioco abituale, insomma, mi sono dovuto cambiare da un anno che ho fatto tanti gol, da centravanti a sfondamento a tornare a fare centravanti arretrato, insomma. Quindi lei si augura che Maestrelli questa volta la riporti al suo ruolo originario? No, io rimarrei volentieri così, se facciamo lo stesso campionato che abbiamo fatto l'anno scorso rimarrei volentieri allo stesso ruolo. Deve essere successo qualcosa. Deve essere davvero una magia quella che si è creata tra questi due uomini. Forse c'è qualcosa della figura paterna che influisce, o forse semplicemente Maestrelli è uno dei pochi che riesce a domare quel cavallo imbizzarrito di Chinaglia, perché i compagni non ci riescono. Chinaglia, sì, era un giocatore particolare. Lui le sconfitte non le sopportava. L'importante comunque era che lui segnasse. Se lui andava in gol, poi la sconfitta la digeriva un po' meglio, però se non segnava lui erano dolori, cominciava a strillare, urlare, a tirare di tutto e condizionava un po' lo spogliatoio. Ecco come lo vede D'Amico, che in quell'anno è uno dei nuovi arrivati. Ma c'è di più: lo spogliatoio non è solo condizionato, lo spogliatoio è diviso, come la strada terrosa che attraversa un piccolo paese nel selvaggio West. Ci sono i clan, da una parte Long John insieme a Wilson, Oddi e Petrelli, individualismo e mani che prudono, dall'altra Martini, Rececconi, Garlaschelli, più socievoli ma non meno irritabili. Sono questi i nomi di quella strana corazzata messa su dal maestro, una corazzata che mischia al bel gioco espresso sul campo l'arroganza e la provocazione. E così le partitelle del giovedì diventano veri e propri scontri in cui i compagni se le danno di santa ragione. I ritiri all'hotel americana diventano dei campionati di tiro a segno con pistole vere per combattere la noia. Nelle interviste non si parla solo di calcio, ma anche di politica, e una buona fetta dei giocatori si dichiara vicina al movimento sociale. Chissà quanto per sbruffoneria o quanto per sfida, vista la situazione politica del paese. E sul campo si guarda in cagnesco tutti verso la stessa direzione, ma si continua comunque a guardare in cagnesco. Come accade a Verona, con la squadra sotto di 2-0 che sta per rientrare negli spogliatoi. Quando andavamo sotto in quel modo, andavamo negli spogliatoi e l'atmosfera diventava incandescente, proprio per le, diciamo, per le forti personalità che c'erano all'interno della squadra. Questo Maestrelli lo intuì e ci rimandò subito in campo, tant'è vero che noi entrammo in campo 12-13 minuti prima dell'inizio della fine, e noi ci schierammo in campo, ognuno nella sua posizione, con la gente che all'inizio rimase incredula, poi capì e cominciò a incitarci. Stavolta è Martini a parlare. Martini, quello del clan di Rececconi, quello che diventerà pilota dell'Alitalia e deputato di Alleanza Nazionale. Insomma, uno che fermo non ci sa proprio stare. Per la cronaca, la partita termina 4-2. E Chinaglia segna e ha ripreso a farlo con buona costanza. Maestrelli sembra davvero essere riuscito ad addomesticarlo. Ma se uno nasce quadrato, non può diventare rotondo. A San Siro, Mazzola fece a Chinaglia un tunnel. La palla, passando sotto le gambe di Chinaglia, andò nella sfera, diciamo, di azione di Vincenzo D'Amico, che perse il tackle con Mazzola, e Chinaglia si adirò molto e gli diede un calcio nel sedere in mezzo a San Siro davanti a 100.000 persone. Dunque è deciso, si andrà avanti così fino alla fine, legando il proprio destino a un filo sottilissimo. Ormai è chiaro, tutti lo sanno, tutti lo hanno capito. D'altronde i gol di Long John sono troppo importanti e Maestrelli se la sta cavando bene. Di fuori dissimula e dentro argina con bastone e carota. Avanti allora, il gioco si fa duro. Vediamo che sarà successo dopo che gli spari avranno cessato di tagliare l'aria. Destini incrociati. La Recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla, fine della partita. Sono le 17.45 del 12 maggio. La Lazio che ha battuto il Foggia di misura e su rigore, campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo. Avete sentito bene? L'audio è vecchio, ma avete sentito bene. La Lazio ha vinto. La Lazio è campione d'Italia. Accade il 12 maggio del 1974 e all'Olimpico c'è ospite il Foggia. Se i biancazzurri vincono, è scudetto. Chinaglia non può lasciarsi scappare un'occasione così. Lo sa anche Maestrelli, che la sera prima dà la solita pillolina di saggezza a Long John per distoglierlo un po' da tutta quell'energia che lo sta divorando. La sera prima Maestrelli mi diceva: Giorgio, ma ti rendi conto? Se noi vinciamo, facciamo lo scudetto. Se vinciamo, facciamo retrocedere la mia ex squadra. Deve aver funzionato quel discorso, perché Chinaglia, invece di farsi largo a suon di spari quella domenica, prepara solo un colpo e lo tiene lì, al caldo, per poi farlo esplodere al momento buono, dal dischetto, trascinando con sé tutta la folla in delirio. Quel giorno era un Olimpico diverso. Era un Olimpico stracolmo, perché c'erano 83.000 paganti, quindi il record assoluto dello Stadio Olimpico. Tutti quanti avevano un simbolo in mano, una bandiera, una sciarpa, un palloncino, un colore che era bianco-celeste. Questa volta è Pulici a parlare, il portiere, lo sguardo più mite in mezzo a quelle facce di bronzo. Finisce 1-0 col Foggia e la festa può iniziare. Bisogna solo dare uno scossone a Maestrelli, che dopo il triplice fischio finale è rimasto lì, impietrito sulla panchina. Chissà se il sentimento che prevale è l'incredulità oppure è semplicemente stanchezza. Una spina che si stacca dopo aver fatto passare migliaia di volt. Non c'è tempo per le domande. La Lazio ha vinto ed è una di quelle vittorie che valgono triplo. Non è uno dei soliti nomi quello in cima alla classifica. L'aveva già fatto il Cagliari, questo scherzetto. Lo ripeterà tra 2 anni il Torino. Ora è il momento dei biancocelesti. Ora è il momento di andarsi a prendere l'abbraccio della gente. Ora arriva il momento più difficile, il momento che dicevamo, quello in cui gli spari finiscono e si attende che la nuvola di fumo si diradi per vedere che fine hanno fatto i protagonisti. Ma non si vede nulla. I due sono spariti, non ci sono più, se ne sono andati. Il primo è stato Tommaso Maestrelli. Troppo presto, su questo sono tutti d'accordo. Colpa di un male incurabile che si è presentato l'inverno del 1975 per trascinarlo giù con sé. Il maestro ha lottato, perché lui è fatto così, e ha lottato a lungo, molto più a lungo di quanto gli avessero diagnosticato. Lo ha fatto con la Lazio sempre lì, di fianco a lui, quell'incredibile squadra da lui plasmata e forgiata e retta sulle spalle. Tanto da dedicarle le poche forze rimaste, salvandola l'ultima giornata in seguito a un miracoloso ritorno in panchina, 2 anni dopo lo scudetto, con il giocattolo che ormai si è spezzato e i colpi che esplodono come echi lontani. Se n'è andato Maestrelli, lasciando un gran vuoto, e non ci si poteva aspettare altro. C'è solo il dolore e la presa di coscienza, come ricorda Felice Pulici. È una sofferenza inevitabile per chi vuole bene, ama una persona e che poi dopo così all'improvviso non c'è più, ecco, ti lascia, e quindi non sei in grado di renderti conto di questo vuoto che ti viene, che ti arriva e quindi che non riesci a colmare mai. Per Chinaglia il discorso è un po' diverso. Come i pistoleri che hanno terminato il loro lavoro, Giorgio abbandona la città e la sua Lazio, andata giù come una sorsata di whisky, volando oltre oceano, lontano da Roma e dal dolore per la malattia del maestro. La destinazione è New York, per segnare caterve di gol, guadagnare dollari e rimproverare se necessario quei due signori di Pelé e Beckenbauer. Long John se ne andrà lasciando dietro di sé dubbi e interrogativi e l'impossibilità di scegliere tra il Chinaglia della rabbiosa corsa nel fango che permette a Capello di segnare e all'Italia di battere l'Inghilterra violando Wembley, lo stadio inviolabile, e il Chinaglia che, sostituito durante un'Italia-Haiti dei mondiali, se ne esce dal campo corricchiando, mandando a quel paese in mondovisione l'allenatore Valcareggi e chissà chi altro. Magari quello stesso destino che si è portato via il maestro. l'unico che lo ha saputo guidare, l'unico che ha saputo parlare con l'uomo e non solo con l'arma. Chinaglia smetterà di attraversare verdi praterie e proverà a procedere a piccoli passi, senza più la furia cieca della carica che lo guidava da giovane, ma non sempre gli verrà bene, forse perché mancava il maestro a indicargli il percorso, forse perché era destino, probabilmente perché la vita di un pistolero è senza confini, che sia la legge o il paese da cui provieni.